coso del Natale chiuso, c'è da tempo. Trenitalia normalmente mette in vendita i biglietti 3 mesi prima. Se voi cercate i biglietti sulle lunghe percorrenze, che ne so, Milano-Roma, Milano-Napoli, vedete che si possono comprare solo fino al 12 dicembre. Siccome se andiamo avanti così, sicuramente ci saranno più persone positive che persone, diciamo, negative, e quindi si andrà al paradosso, andremo noi che siamo negativi in casa in quarantena, in protezione. Levate sta campanella del tin tin tin tin tin tin della borsa, la roba non si può sentire, al mattino uno c'ha la radio qua, uno che è appeso, appena sveglia, pam pam pam pam pam pam. Ma come, è la sigla preferita dal nostro Leonardo Manera. Questa, ecco, è una mia vecchia campagna. Io è un anno che dico di cambiare la sigla della borsa, che è veramente insostenibile, fastidiosa. Ha ragione l'ascoltatore, soprattutto al mattino. Non capisco perché la direzione di Radio 24, anzi l'amministratore delegato, il signor Cerbone, signor Cerbone, Cerbone, Cerbone, Cerbone, subito fai cambiare la campanella della borsa, signor Cerbone. Cambiamo, è insostenibile. Mario Calabresi, c'è una rivolta dall'interno. È evidente che Manera, ma quello lì era cugino di Manera, quello che è andato contro la campanella. Sì, lui, esatto, se le organizza, esatto, le telefonate. Esatto. Diciamole le cose. Allora, diciamole, diciamole. Ma io, allora, da 3 giorni dico Azzolina. Azzolina, perché secondo me il ministro dell'istruzione in questo caso deve tenere duro sull'importanza della scuola in presenza. No, lo dico, sì. Chiedo a Mario Calabrese, Manera, vediamo, tutti i giorni ci prova. Finché si può, sì, sono d'accordo. Ti direi una cosa, no, finché si può assolutamente, ritornare sarebbe un disastro per i ragazzi, un disastro per la didattica. E sarebbe un disastro per le famiglie, ragazzi che tornano a casa, che si rirompe tutto davvero. Detto questo, però, invece un'idea, per esempio, di orari sfalzati, sì, per, vabbè, le superiori, okay, per alleggerire, okay, il peso sulle città, sui mezzi di trasporto, e questo qui era un ragionamento, sì, che andava fatto. Ti vorrei dire che la ministra ne aveva parlato, non lo so, era 4 mesi fa, aveva detto faremo il cruscotto, sì, te lo ricordi? Sì, sì, il cruscotto. Mai visto. Sì, è vero. Vedi che anche Mario Calabresi è d'accordo con me. Perché Leonardo Manera ci prova tutti i giorni a seguire. Manera, sei tu che sei d'accordo con me. No, vediamo se Leonardo ce la fa a dire anche lui Azzolina. È per quello che io non riesco a dire non ce la faccio a dirlo tutto. Non ce la fa a dirlo, nonostante sia d'accordo anche lui sulla didattica. No, mi fa piacere perché Mario Calabresi condivide la mia posizione, sì, totalmente, sì, aderisce, insomma, alla mia posizione. Va bene. No, lo dico perché poco fa il presidente della regione Lombardia Fontana ha detto che è vero, abbiamo sentito il ministro, dice Fontana, è contraria alla didattica a distanza, ma è d'accordo a discutere sulla differenziazione degli orari. Quindi vedi, Mario, ti ha ascoltato anche il ministro Azzolina, e quindi pare che si arriverà magari a degli ingressi così scaglionati, ecco. Sai che invece stamattina, venendo in metropolitana, a ogni fermata c'è la voce che dice mettete la mascherina, tenete la mascherina, sì, gli altri passeggeri vi ringrazieranno. Anche oggi nessuno. Dopo un po', a parte che nessuno ti ringrazia, questo già crea una mortificazione di fondo. Ma poi sentire a ogni fermata che ti dicono così ti crea quasi l'effetto opposto. Dice, va bene, l'ho sentito, la tengo. Anche perché tutti questi giorni ne ho visti solo due, con la mascherina sotto il naso. Quindi pochi. Pochi, no, la gente dice. Mario, ma noi martedì prossimo ti aspettiamo qui. Va bene. Va bene. No, l'ha detto così. No, esce anche il nuovo libro di Mario Calabresi. E martedì in anteprima. Se vai da altri prima di noi. No. Caffè, te l'ho detto, proprio negati. Tu metti il caffè e io il primo posto dove vengo a parlare del libro è da te. Va bene. Ma mi viene un dubbio. Una cosa. Sì. Ho scoperto. Io racconto una storia di un ragazzo degli anni 70 e ho scoperto che la compagna di classe era la professoressa con cui parlavamo prima, Lucetta Scarafia. No! Era compagna di classe del ragazzo di cui parlo. L'ho scoperto soltanto questa mattina. Ma porca miseria, ma questo è... Insomma, ma come l'hai scoperto stamattina? Come hai fatto? Parlare, mi ha mandato un messaggio... No, mi ha mandato un messaggio, mi ha detto ho saputo del suo nuovo libro, io ero compagna di classe di Carlo.